Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Come sarà il supermercato del futuro? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Tra scaffali e carrelli intelligenti, come cambierà il nostro modo di fare la spesa? Sulla scia dell'accordo tra Coop ed Expo 2015, per cui la catena commerciale leader in Italia allestirà il Future Food District, ne parliamo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Focus sui trend dedicato invece alla kit mania, quando scatole e istruzioni fanno tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. La crisi dei consumi non sembra avere fine. A novembre l'Istat registra l'ottavo calo consecutivo per le vendite al dettaglio. Se i dati di dicembre non invertiranno la rotta, il 2012 sarà ricordato come l'anno peggiore dei primi anni 90. Nella valanga di ribassi, in cui non si salvano nemmeno gli alimentari, spicca però il segno più registrato dai discount. Resta impicchiata anche il mercato pubblicitario. Nel penultimo mese del 2012, rileva Nielsen, il calo è stato del 23%, meno 14% rispetto al 2011. Soffre soprattutto la pubblicità in TV, in calo di oltre il 15%. Ad eccezione di internet, più 7%, tutti i media tradizionali presentano segni negativi. Brand francesi al top nelle preferenze dei ricchi cinesi. Secondo l'Urun Research Institute, istituto di ricerca con base a Shanghai, nella top 10 figurano ben 6 griff transalpine: Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Cartier, Dior e il produttore di vini Chateau Lafite. Unico italiano nella top 10, Gucci, al sesto posto, undicesimo Armani, seguito da Prada. La banca americana Goldman Sachs e la compagnia petrolifera Shell sono invece le vincitrici del premio per le peggiori imprese assegnato ogni anno a margine del World Economic Forum. Il Public Eye Award, promosso dalle ONG Dichiarazione di Berna e Greenpeace Svizzera, premia le imprese che si sono distinte per la loro irresponsabilità in materia di diritti umani e protezione dell'ambiente. La seduzione dell'artigianato, ovvero il bello e ben fatto. È il titolo della mostra che celebra la maestria sartoriale della moda made in Italy. 130 gli abiti esposti, creati dai più grandi stilisti italiani. Fino al 10 febbraio al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma. La borsa della spesa. A Roma, al Palazzo dei Congressi dell'Esposizione, si può ammirare in funzione il supermercato americano. Lo slogan è semplice: tutto alla portata di tutti. Si va dagli antipasti e si finisce alla frutta e al dolce. Finito il rifornimento, non resta che passare alla cassa. Sì, pagare si paga come da noi. Questo è l'unico inconveniente del supermercato americano. Come mai c'è tanta gente qui? Penso, per me, molto si è dovuto all'assortimento. Il cliente entra da noi e ci trova tutto. Spaghetti a 150 lire, carne, frutta, verdura, tutto fino al caviale e l'aragosta. E questo è molto importante perché si risparmia tempo e denaro. Questo oggi, fra 1000-2000 anni, anche i supermercati, chissà, saranno considerati curiosità di epoche primordiali. La spesa si ordinerà elettronicamente e i lauti pranzi dell'epoca si svolgeranno a base di pillole. Sarà un bene o un male, ai posteri appunto, l'ardua sentenza. Il 1957 in Italia nascevano i primi supermercati e di colpo il futuro entrava nella spesa di tutti i giorni. Anche oggi, tra innovazioni già operative e scenari futuribili, la grande distribuzione si interroga sul supermercato del futuro. Come si sceglieranno i prodotti, come saranno esposti, quali informazioni riceveremo, come pagheremo. Troveremo una prima serie di risposte ad Expo 2015 nel padiglione sul Future Food District che Coop allestirà in collaborazione, pensate, con l'MIT di Boston e l'equipe di Carlo Ratti. Un accordo da 13 milioni di euro in base al quale Coop garantisce ad Expo la vendita di 1 milione di biglietti.

diverso. Ecco perché il titolo è Building Stories, storie da costruire. Ognuno prende i pezzi liberamente e li ricombina per costruire la sua propria storia. Dunque, un fumetto che diventa kit perché ognuno si faccia il fumetto che preferisce. Del self-publishing rimaniamo in ambito consumi culturali, abbiamo già parlato, ognuno si può stampare il proprio romanzo, il proprio saggio, il proprio libro di poesie e anche i libri scolastici diventeranno via via fai da te. In Italia sono già circa 800 i docenti di 70 istituti scolastici che con iPad e l'app iBook Author creano testi digitali, producono cioè contenuti multimediali delle dispense co-create con gli studenti. È un indicatore di un grande cambiamento in atto nelle modalità di apprendimento dei più giovani e anche delle istituzioni scolastiche che via via integreranno la tecnologia tra i loro strumenti a supporto della didattica e anche del coinvolgimento. E poi ci sono kit anche per cambiare o potenziare la propria identità. Il graphic designer croato Mihail Miklošić ha assemblato il kit per apprendisti hipster. Occhiali con montatura nera comunque scura, camicia di flanella a scacchi, il pezzo forte, l'abito che fa subito il monaco, la macchina Polaroid perché Instagram è troppo mainstream e un set di baffi e barbe. Tutto questo accompagnato dal manuale How To per diventare l'hipster che si è oppure per fingere di essere quello che non si è. Anche i palinsesti televisivi declinano la tendenza in molti modi, dalle TV generaliste ai canali tematici sono moltissimi i programmi che ci insegnano a truccarci, a cucinare, a costruire, ad aggiustare, a decorare la casa. Di fatto sono dei maxi tutorial YouTube in versione televisiva. In tema di format culinari vi segnaliamo una parodia molto gustosa, una web series online dal 18 gennaio è Madame Rouge. Cuoca burlesque che dispensa ricette dalla vasca da bagno. Eccone un assaggio, trovate il link sulla nostra pagina Facebook. Quand tout devient silence, lorsque le jour est fini, que mes rêves. Bonjour à toi, cara amica, moderna, assabonata, indaffarata, benvenue da Madame Rouge, dove la cucina bouge et bruge, ah, comme bruge. Et alors, s'incomincia, ça commence, filetto di platessa sul letto di ceci e spinaci crudi. Ingredienti, filetto di platessa, farina di ceci, ceci, spinaci crudi e poi un uovo, olio e sale, quanto basta, kubu, quanto vuoi tu. Patrizia, kit mania è soprattutto autoproduzione. Certo, si impara come fare per poi fare e il mercato, intercettata questa esigenza diffusa delle persone, offre kit per autoprodursi sostanzialmente tutto. Si ordina per esempio su bottegatrentina.it il kit per l'autoproduzione domestica di ricotte, crescenzine, caprini, fiocchi, caciotte, un termometro, frusta, acidificatori vegetali, un manuale e poi anche erbe fresche, mandorle, noci, pepe, spezie, frutta eccetera per versioni personalizzate irripetibili del formaggio che uno si fa in casa. Con Digital Chocolatier ci si crea dolci al cioccolato con gli ingredienti preferiti, la granella ma anche i sali, le tipologie di cioccolato eccetera. Per farsi il vino c'è Fuse Box prodotto dall'azienda Crash Pad di San Francisco, un kit che contiene 7 tipi di vino e tutti gli strumenti necessari per ricreare alcune qualità o inventarne delle nuove, una sorta di gioco da tavolo anche per l'estetica interessante della confezione. Il kit è per non esperti ma comunque appassionati di vino. E anche per farsi un cellulare c'è un kit. Il cellulare è di legno, perfettamente funzionante, per farlo ci vogliono circa $150. È la dimostrazione che con materiali facilmente reperibili in qualsiasi negozio di elettronica e una stampante 3D che modella lo chassis di legno più un software rigorosamente open, quindi tutto molto accessibile, si riesce a farsi un telefono. Realizzato a scopo dimostrativo e di ricerca, per ora la componentistica è davvero essenziale. Il telefono può solo chiamare e ricevere, quindi niente sms, video, navigazione. Nel kit il software di progettazione e i diversi modelli realizzabili. Ci si può fare il proprio profumo. Passiamo alla cosmesi. A Parigi da Aromazone si acquistano gli ingredienti e a casa ci si fa il profumo, così come le creme, gli struccanti, i detergenti, eccetera. Il punto di forza è l'online store aromazone.com, dove oltre agli ingredienti ci si può dotare anche di attrezzi, bilancini, gli utensili, le spatoline varie. Il fenomeno ha generato un interessante traffico su YouTube con molti tutorial, ma soprattutto i video dell'unboxing, cioè il momento elettrizzante dell'apertura del pacco e di scoperta del contenuto, che è diventato esso stesso un fenomeno new mediale. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a New York sulla kit mania? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Chef Day è una startup che promette ai newyorkesi di imparare a cucinare come uno chef, fornendo gli ingredienti e le ricette necessarie per ricreare nella propria cucina un ristorante a 5 stelle. Il funzionamento è molto semplice. Collegandosi al sito chefday.com si possono guardare dei video in cui chef famosi nella scena newyorkese, da chef stellati ai cuochi underground di Brooklyn, illustrano passo dopo passo le ricette di loro invenzione. A quel punto gli utenti possono scegliere la ricetta che preferiscono e ordinare tutti gli ingredienti necessari a cucinarla a casa propria. La consegna arriva in giornata, dalle 3 alle 5 del pomeriggio se si è in ufficio o dalle 7 alle 9 a casa. Questo perché gli ingredienti non solo sono esattamente porzionati sul numero di persone fino all'esatta quantità di sale e olio, ma sono anche tutti freschissimi e acquistati dai fornitori stessi degli chef. Col pratico kit arriva a destinazione anche il video tutorial che fa da supporto alla preparazione e da cui apprendere tutti i trucchi del mestiere. Chef Day ha anche un occhio di riguardo per i più bisognosi, per cui per ogni kit consegnato viene donato un pasto alla Food Bank di New York City. Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione ricapitoliamo le parole chiave di questa tendenza. L'abbiamo detto: l'autoproduzione, la personalizzazione di massa, la condivisione del know-how tra persone e tra mercato, tra aziende, brand e consumatori. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito e dalla nostra pagina Facebook, in attesa di risentirci domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.